Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La giornata inizia molto presto, come tante altre. Ma questa è speciale, perché si entra a New York e perché si navigherà sull'Hudson nel centenario della Statua della Libertà, tra mille festeggiamenti e tante altre navi. Ciao, sono Guido Conio, vivo a Crema, 45 anni, dirigente d'azienda. Il Vespucci, o meglio l'Amerigo Vespucci, è l'assoluto protagonista di questa puntata ed è quello che rappresenta l'Amerigo Vespucci più che il Vespucci in sé. È il fatto che l'Amerigo Vespucci è una nave scuola, cioè una grande nave su cui gli allievi di una scuola, in questo caso dell'Accademia Navale, fanno un corso che dura un tot di mesi, boh, due, tre, non lo so, o forse di più, in cui imparano qualcosa e di fatto prendono largo, iniziano a navigare e in teoria iniziano la loro carriera e forse la loro vita. 349-238-6666, questo è il numero per mandare un sms. Vi posso chiedere per piacere di non chiamare il 349-238-6666, perché appare poi sulla schermata degli sms: ho provato a chiamarti, ma non esiste questo numero, esiste solo come sms. Per cui 349-238-6666, la vostra nave scuola. Non dovete per forza essere dei marinai, si parla di qualcosa che vi ha insegnato molto e vi ha iniziato alla navigazione, a quello che fate, anche se l'avete abbandonato quello che avete fatto grazie alla vostra nave scuola, anche se fate un altro mestiere, anche se siete persone diverse, in qualche modo quella nave scuola lì vi ha formato. 349-238, ripeto, 6666, il profilo Facebook del programma è Voi Siete Qui Radio 24. Francesca dice: la mia nave scuola è stato fungere da relief lead, letteralmente coordinatrice dei commessi, al padiglione italiano di Epcot Center Disney World a 20 anni. Aspetta che lo ricomponiamo sto messaggio, perché allora a 20 anni Francesca nella sezione italiana di Disney World, Epcot Center, è stata coordinatrice dei commessi. Ecco, quell'esperienza è stata la sua nave scuola. Ce l'abbiamo fatta, la corte. Guarda, la corte, se l'hai capito anche tu, perfetto, l'hanno capito tutti. E poi Laura Vico: la mia nave scuola è stata Caprera. Caprera è la scuola di vela, il centro velico scoperto un po' per caso, un po' per sfida, alla tenera età di 30 anni. Due settimane che mi hanno messo a dura prova fisicamente, ma mi hanno fatto tornare a casa con la voglia di vento e di salsedine. E poi lei dice: per non so quanti mesi ho continuato a ripetermi: se sono state due settimane al centro velico posso fare qualsiasi cosa. Questa, diciamo, è un po' l'idea che hanno quelli che vanno al centro velico quando ci tornano, perché sostanzialmente dormi poco e male e stai molto in mare, e il mare chiaramente ha qualcosa di formativo, soprattutto se non ci fai solo il bagno ma se ci navighi sopra. Oggi però si parla in particolar modo del concetto di nave scuola, qualcosa che vi ha iniziato a qualcos'altro. Massimiliano: sono rimasto in barca senza benzina con un amico e ho imparato a remare. Ecco, quella, a modo suo, quella è stata la sua nave scuola. 349-238-6666. Tra l'altro vorrei leggerlo no dai, lo leggo dopo. È che quando si parla di navi scuola, di mare, di esperienze di vita, non si riesce a non prendere in mano il libro di Conrad. E visto che avevamo già letto La linea d'ombra, l'avevamo già letto, credo anche Cuore di tenebra, avessimo già preso dei pezzi nelle scorse puntate, forse addirittura nelle scorse edizioni, abbiamo scelto il finale di un racconto che è meraviglioso, che si chiama Gioventù, e che vorrei leggere. No, lo leggo dopo, dai, lo leggo dopo la borsa. Vi leggo questo pezzo dedicato al mare, all'imparare e al desiderare di essere sempre un po' illusi. Vabbè, più tardi. 349-238-6666. La storia di Guido invece è ambientata proprio lì, è ambientata sull'Amerigo Vespucci, è ambientata nel 1980... Insomma, un bel paio di anni fa, e racconta di quando quella grande nave lì, su cui ci sono questi allievi, questi cadetti dell'Accademia Navale, sta per entrare nella rada di New York. La giornata inizia molto presto, come tante altre, ma questa è speciale, perché si entra a New York e si navigherà sull'Hudson nel centenario della Statua della Libertà, tra mille festeggiamenti e tante altre navi. Tutta la notte quasi non abbiamo dormito per partecipare ad una sessione di pulizia straordinaria a bordo. Il comandante vuole entrare in porto con tutti gli ottoni che brillano di luce propria e il tech della coperta lindo, come una tavola da pranzo. Ma noi siamo contenti comunque. L'eccitazione è tale che saltare una notte di sonno nessuno lo vive come un dramma e soprattutto non ha praticamente effetto su un corpo di soli 18 anni. Certo che, mentre si salgono le sartie per raggiungere gli ottoni dei pennoni più alti, ci si rende conto che stanotte la luna non c'è e non si vede praticamente nulla. In mezzo al mare anche un piccolo spicchio di luna illumina e permette di vedere dove si mettono i piedi o dove si protendono le mani. Stanotte invece sembra che la luna abbia deciso di giocare la nostra stessa partita, lasciandoci soli in mezzo al mare. Ci consente di nasconderci alla vista degli altri e di rassettarci al riparo da sguardi indiscreti. Come una donna che si chiude nella sua camera davanti allo specchio per truccarsi prima di una serata importante. A cavalcioni del pennone a 50 metri d'altezza mi ritrovo a pulire gli elementi in ottone, una maniglia, una piccola lanterna, senza nemmeno poterli vedere. E lì sopra penso a come tutto questo è iniziato. E se le azioni un po' distratte di pulizia che stavo eseguendo avessero un senso e formassero davvero il mio spirito al comando. Sono entrato in Accademia Navale perché, per un caso, mi piaceva la Marina, ma soprattutto mi è arrivata una cartolina e dire vieni con noi a girare il mondo. Cos'è la crociera sul Vespucci? In realtà non è una crociera, è una campagna di addestramento, ma è un modo per iniziare a vivere il mare per i cadetti dell'Accademia Navale e ad addestrarsi a quello che c'è fuori e a quello che significa essere su una nave. Mi era arrivata una cartolina dall'Accademia Navale. Vieni con noi e girerai il mondo, diceva. E io, da buon diciassettenne provinciale, che non aveva mai messo il naso fuori dal mio piccolo ambiente, mi chiedevo cosa davvero ci fosse in quel mondo da girare. I mezzi della mia famiglia erano pochi, genitori separati e mio padre che non aveva soldi per aiutarci. Anzi, direi che riusciva a malapena ad aiutare se stesso. Mia madre faceva il possibile per tirare su i 4 figli con dignità e speranze in un futuro. Al tempo ricordo mia madre che lavorava, lavorava e lavorava, non ho altri ricordi. Immaginarsi quindi come vivevo il pensiero di poter partire e conoscere cosa ci fosse fuori. Spedisci la cartolina con i tuoi dati, non serve neanche il francobollo, diceva. E così feci. L'Accademia Navale mi convocò per il concorso. È la mia estate dopo la maturità e non posso pensare di rovinarla partecipando ad un concorso che, compresi solo quando mi convocarono, durava quasi 40 giorni. Ma era l'occasione per iniziare a uscire dal mio guscio e provare a camminare da solo. Era comunque un'esperienza che mi sarebbe servita, no? Il concorso andò via liscio. Soffrivo per la lontananza da casa, ma i risultati scolastici molto buoni mi aiutarono a superare lo scoglio e ad essere ammesso in accademia. L'accademia iniziò nell'ottobre del 1985. In cuor mio avrei voluto continuare a studiare come tanti miei amici all'università, fra uscite serali e magari qualche lavoretto a tempo perso. Inoltre, non volevo immergermi in quel mare di competitività che era l'accademia. Ma l'occasione non potevo lasciarla cadere. Ed eccomi a correre per un anno intero pugni al petto, il modo un po' goffo di correre degli allievi del primo anno. Ma ora ero lì su quel pennone a lucidare una lanterna, nel buio profondo della notte, sperando che una volta uscito il sole splendesse abbastanza. Ero lì senza riuscire ad immaginare la giornata entusiasmante che avrei vissuto l'indomani. All'alba, infatti, ci muoviamo ed entriamo nella rada di New York. Visto dal mare, lo skyline è fantastico. La giornata è piena di sole e il fiume Hudson è già carico di imbarcazioni. I velieri storici arrivati da tutti i paesi del mondo erano lì ad attenderci. Abbiamo preso la nostra posizione nella fila di veglieri e abbiamo risalito il fiume. Tutte le vele erano aperte, mostrando il Vespucci nel pieno del suo splendore. Anche i miei ottoni brillavano al massimo possibile. Peccato solo che il vento si facesse desiderare e purtroppo dovemmo dare una spinta alla nave con i motori. Le vele non erano proprio gonfie, ma l'effetto era comunque fantastico. Passammo davanti al palco delle autorità con il presidente Reagan che ci guardava ed io ancora non ci credevo. La sera, a fine giornata, sono distrutto ma felice. Vado con un collega a guardare i fuochi d'artificio per i festeggiamenti dell'indipendenza degli Stati Uniti dalla riva del Hudson. Il ricordo più bello è la parata che c'è stata dall'alto dei Pennoni, e vedere tutta quella gente che era lì per noi, lì davvero per noi, ed è stato bellissimo. Finiti i fuochi, tutti iniziavano a defluire. Mai vista tanta gente che si muoveva tutta insieme. Iniziammo a seguire il flusso, ipnotizzati da quella massa che, agitando i pugni e sollevando le mani all'unisono, cantava Born in the USA di Bruce Springsteen. Ci ritrovammo davvero da soli in un quartiere che riconoscemmo immediatamente come Chinatown. Cinesi in moto ci giravano intorno e, festeggiando a modo loro, ci lanciavano petardi tra le gambe. C'era un ristorante aperto, in effetti non avevamo ancora cenato e valeva la pena togliersi dalla strada. Entrammo. Io non avevo mai mangiato cinese. Quel sapore dolciastro del pollo alle mandorle e della guarnizione con ciliegie glassate me lo ricordo ancora. Il tavolo accanto è occupato da due ragazze. Iniziamo a guardarci e capiamo subito che le ragazze sono incuriosite da noi. La divisa non passa inosservata. Loro sono bellissime. Forse si può prendere l'occasione e provare a conoscerle, ma il tempo stringe. Occorre tornare a bordo entro mezzanotte, come Cenerentola. Se non rispettiamo l'orario di rientro, scattano punizioni che ci impediranno di vedere il resto della città nei prossimi giorni. Insomma, non c'è tempo per le donne ora. Anche se ragazze così nella mia vita non le avevo mai viste. Paghiamo e usciamo. Aspettiamo un taxi. Ecco, quella volta ho imparato che la sera del 4 luglio meglio non contare sui taxi a New York. Aspettiamo tanto, ma taxi non si vedono. Arrivano anche le due ragazze. Si fermano e iniziano a chiacchierare con noi. La più bella aveva un tubino di filo color panna, bretelline alle spalle, seno piccolo e fianchi poco pronunciati. Un viso dolce, occhi azzurri e capelli biondissimi e lunghissimi che cadevano sulle spalle. Voleva sapere chi ero e cosa facevo. Gli piaceva la divisa, gli piaceva l'uomo italiano, diceva. Chiese di poter passare del tempo insieme, di andare in qualche locale a ballare, a bere qualcosa, ma purtroppo non potevo. Dovevo tornare a bordo e senza di lei. A malincuore rifiutai l'invito. Chissà se mi ricapiterà ancora, pensai. Passò un taxi che bloccammo per un pelo. Salutai e corsi verso l'auto dall'altra parte della strada. Ma lei mi chiamò. Corse verso di me e mi baciò. Un bacio forte, appassionato. Mi disse: quando torni in Italia, di a tutti i tuoi amici che ti ho baciato. Mi salutò e scappò via. Yes, I am Mother Nature's son. La mia nave scuola è stata lo scautismo, scrive Maurizio da Udine. Antonio invece scrive: la mia nave scuola è stato un salone da barbiere. Che non capisco esattamente perché, forse perché adesso fai il barbiere o il parrucchiere. E poi ancora: la mia nave scuola è stata la grotta, ore e ore, giorni e giorni sottoterra. Insomma, per ognuno di noi c'è qualcosa che ha formato, che ci ha formati e che ci ha reso in parte quello che siamo. Roberto mi scrive: la mia nave scuola è stata il Vespucci nel 1982, a 19 anni. Ho imparato lì a convivere con gli altri e ho imparato l'aiuto reciproco. Ho imparato che per comandare devi prima conoscere il valore del comando che darai. Oggi sono direttore di azienda grazie a quell'esperienza. E questa è più o meno una storia simile a quella di Guido. Pronto, Guido? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Oh, benissimo, benissimo. Senti, quanti ricordi mi hai fatto di venire in mente adesso. Guarda, la storia, come mi viene da dire, sempre è la tua. Non, anzi, ho dovuto accorciarla un po', te ne sarai accorto, perché era molto più lunga, anche se insomma era tutto interessante. Ma il tempo qui è quello lì. Il messaggio che ho appena letto, non so se l'hai sentito, di Roberto, che dice che ha fatto l'Accademia a 19 anni nell'82 e poi adesso è dirigente d'azienda. Sembra la tua storia. Ma guarda, sono, devo dire, tutti quelli che sono alla fine usciti dall'Accademia hanno in qualche modo trovato una strada, ed è quasi sempre va in questa direzione, insomma, azienda privata e... Qualcosa che ha a che fare col comando, quindi, più o meno. Sì, sì, sì. Guarda, sì, il Vespucci, ma la Marina, insegna veramente tante cose, a stare al mondo e a dirigere un gruppo, farsi voler bene, rispettare e ottenere risultati. Senti, quanti allievi escono ogni anno dall'Accademia? Ma guarda, adesso non sono proprio molto informato su quello che accade oggi. All'epoca era un centinaio, oggi non so, ma immagino che siano più o meno sulla stessa cifra. E scusami, su un centinaio quanti più o meno, rispetto alla tua esperienza intendo dire, quanti continuano poi a fare la carriera militare e quanti invece escono e fanno lavori privati? Guarda, del mio corso sono rimasti, per la parte dei corpi tesi, quindi quelli che sono laureati in ingegneria, penso un 30%, poi tutti vanno... Quindi diciamo, la maggior parte in realtà, passami il termine, usa le possibilità che offre la Marina e l'Accademia Militare per fare la ferma, insomma. Che quanti anni sono di ferma, mi dicevi prima? Ma all'epoca erano, sì, una decina d'anni, 10, 12, sì, insomma, all'incirca. E dopodiché fare proprio, insomma, i principi, le regole, le capacità che ha appreso dall'Accademia per la vita propria, più o meno, la gran parte degli allievi. Sì, anche perché tieni conto che non è che tutti possono arrivare a fare l'ammiraglio, ecco, quindi insomma in qualche modo per strada si deve perdere per forza. Scusa, che cosa fa uno che rimane, una persona di 50 anni che è ufficiale in Marina, che ha fatto l'Accademia e che non è ammiraglio, cosa fa? Ci sono poi comunque degli incarichi operativi, alla fine bisogna comunque addestrare delle nuove persone, dei nuovi ufficiali, bisogna tenere in esercizio i mezzi, bisogna poi anche operativamente comandare le navi, non soltanto da sopra le navi, ma anche organizzarle, quindi certo. No, ce n'è di lavoro. Tu adesso cosa fai esattamente, Guido? Io mi occupo di vendite, per cui ho preso la mia laurea e l'ho insomma un pochettino messa nel cassetto, che di navi non mi occupo, ma mi occupo di automazione industriale. Perché poi è una laurea in ingegneria, giusto, navale più meccanica, o meno? Navale e meccanica. Sì. Senti, di quei 100 compagni, vi sentite ancora? C'è uno scambio? Vi incontrate? Certo, come no. Insomma, con molti sono tuttora in contatto più che frequente. Con altri un po' meno, ma è stato proprio un paio d'anni fa che ci siamo rivisti tutti insieme dopo 25 anni, quindi abbiamo fatto una donata. Senti, in quella decina d'anni di ferma e di viaggio, no, quello che ti avevano promesso, con noi girerai il mondo, quanti posti hai visto grazie alla Marina? Alla fine ne ho visti tanti, non... proprio tanti, perché poi insomma la parte in Nord America lì con Vespucci, che era quella che hai raccontato, poi siamo andati in Sud America, poi ho visto l'Africa, ho visto il Nord Europa, in Russia siamo stati la prima nave ad entrare in Russia, siamo stati con in un'altra campagna di addestramento la prima nave NATO ad entrare in un porto russo dopo la caduta del muro. Sì. Senti, invece, e poi ti lascio, ma è vero che sul Vespucci si dorme sulle amache? Sì, certo. Sì. Scusami, ma tutto ciò non è dannosissimo per la schiena di un giovane diciottenne? Penso proprio di sì, però vabbè, sono 3 mesi. E come ho scritto, a 18 anni puoi far di tutto, ma immagino, non senti nulla. Immagino. No. Guido, sei tornato a New York ovviamente da allora, sì? Molte volte, sì. Ti ringrazio moltissimo per la storia e la chiacchiera. Grazie mille a te. Ciao Guido, buona giornata. Ciao, grazie, ciao. 15 anni da scrutatore, segretario e poi presidente di seggio elettorale mi hanno insegnato un sacco di cose sulle dinamiche delle comunità umane. Marco. Ha decisamente una bella pelata Guido nella foto che ci ha mandato, ma completamente pelato. Sembra... più che pelato è rasato, direi. Però ha un bellissimo sorriso, ha gli occhi azzurri, i capelli, per quello che si vede dalle sopracciglia, molto bionde, e ha decisamente lo sguardo del comando. Nave scuola. Sostantivo femminile. Nave attrezzata per l'istruzione e il tirocinio degli allievi ufficiali di marina. Poi ci sarebbe un'altra definizione, ma meno ufficiale, e qua non c'è nel dizionario. Ma è praticamente quella che danno tutti, cara Alessandra De Luca, quella definizione lì. Non ne ho lette perché è quasi scontato, ma al 349-238-6666 e sul profilo Facebook la nave scuola è soprattutto quella lì, insomma. Ne leggo uno su tutti. Walter: lei 18 anni, io 15, e non ci ho capito niente. 349-238-6666. Chiedo scusa a tutti quelli che mi correggono sul fatto che si dice il Vespucci e non la Vespucci, perché è maschile, perché è una nave, è un veliero, è un brigantino, credo, ma non lo so. Scuola AASS Lodo FI Ostia GDF Claudio, non ci ho capito niente manco io, quasi come Walter, però immagino sia una scuola, la scuola della Guardia di Finanza. La mia nave scuola, mi scrive qualcuno che non si firma, è stato un disco in polivinile che mio padre, chissà per quale insondabile arcano, lui artigiano e a digiuno costante di cose belle, aveva deciso di donare a me, che all'epoca era il 78, avevo solo 11 anni. Era la terza sinfonia di Beethoven. Per me, che fino ad allora avevo solo ascoltato Superman e Video Killed Radio Star, si aprì un mondo nuovo e meraviglioso che ancora oggi, dopo essermi diplomato in pianoforte, mi accoglie. Insomma, si va da nave scuola a nave scuola, oserei dire. C'era un altro messaggio, ecco, Francesca che scrive: la mia nave scuola si chiama Caterina, aveva 4 mesi quando le ho fatto da babysitter a tempo pieno. Io avevo 17 anni, occupandomi di lei in un'estate sono diventata adulta. Insomma, il concetto di nave scuola è amplissimo, comunque ha a che fare con il fatto di qualcosa che ti accompagna da una parte, ti porta da un'altra, e durante quel viaggio lì impari qualcosa. E come vi dicevo, finalmente è arrivato il momento di leggerlo. C'è un racconto di Joseph Conrad che si chiama Gioventù, e parla, come tutti i racconti di Conrad, parla di navi, parla di mare, vabbè, non proprio tutti, però quelli importanti e corposi. Lui che era stato, lui era stato ufficiale di, no, Tiziano, lui però era stato ufficiale di marina mercantile, mi pare, sui mercantili, no, non militare. Questo racconto, appunto, che si chiama Gioventù, finisce in un modo meraviglioso. Ci sono queste persone diventate grandi ormai, i cinquantenni di cui parlavamo prima insieme a Guido, no, che hanno lasciato la marina e hanno fatto altro nella vita e spesso hanno ottenuto tanto. C'è uno di loro che parla e parla insieme a questi che sono diventati ricchi, sono diventati imprenditori, sono sposati, hanno avuto famiglia, moglie, hanno avuto altro rispetto al mare, alla marina e alle navi. E questo tizio li porta indietro nel tempo, li riporta a quel momento in cui tutto sembrava girare intorno alla propria gioventù. Per me tutto l'Oriente è contenuto in quella visione della mia giovinezza. Sta tutto in quel momento in cui aprii i miei giovani occhi su di esso. Lo avevo incontrato venendo da una baruffa col mare ed ero giovane e vidi che mi guardava. E questo è tutto quanto me ne resta. Solo un istante di forza, di fascino, di incanto, di gioventù. Uno sprazzo di sole su una spiaggia straniera. Il tempo di ricordare, il tempo di un sospiro e addio notte, addio. Bei tempi quelli, bei tempi, giovinezza e mare, fascino e mare. Il buon mare, forte, il mare salato, amaro, che sa sussurrarti all'orecchio e ruggirti contro e toglierti il respiro. Il mare è la meraviglia fra le meraviglie del mondo, credo. Il mare di per sé, o è soltanto la giovinezza? Chi può dirlo? Ma voi altri, qui, tutti avete avuto qualcosa dalla vita. Denaro, amore, tutto ciò che si può avere a terra. E ditemi, non è stato quello il tempo migliore? Il tempo in cui eravamo giovani in mare. Giovani e senza nulla. Sul mare che non dà nulla, salvo brutti colpi. E a volte l'occasione di provare la vostra forza. Non è questo solo ciò che voi tutti rimpiangete. E noi tutti annuimmo. Il finanziere, il contabile, il legale. Noi tutti annuimmo sopra al tavolo levigato e lucente che, come un'immobile superficie d'acqua scura, rifletteva i nostri volti scavati, rugosi, i nostri volti segnati dalla fatica, dalle delusioni, dal successo, dall'amore. I nostri occhi stanchi, che cercavano ancora, che cercavano sempre, che cercavano ansiosamente qualcosa nella vita che, mentre s'aspetta, è già fuggito, è passato non visto, in un sospiro, in un baleno. Insieme alla gioventù, insieme alla forza, insieme all'incanto delle illusioni. I wish I was in London or some other seaport town. I set myself on a steamship and I'll see the ocean round. While sailing around the ocean, while sailing around the sea, I dream of handsome Molly wherever she might be. Her hair's as black as raven, her eyes as black as coal, her teeth are like lilies that in the morning. Per chi non l'avesse riconosciuto, questo era Mick Jagger, mi dice Tiziano Bonini di là dal vetro, che canta una piccola chicca perché parlava di marinai e di mancanze. 349-238-6666. L'Amerigo Vespucci della mia famiglia, due adulti e due bambine, mi scrive Luca, è una barca a vela di appena 5 metri e mezzo. Ogni estate viviamo tutti assieme dentro questo guscio per 15 giorni di pura poesia, tramonti mozzafiato e vento. Impariamo a conoscere noi stessi fuori dalla routine quotidiana. Per Marta e Giacomo, cioè i miei figli, se hai 10 anni, è una vera palestra di vita. E questo poi, chiaramente, quando si parla di militari, di marina nella fattispecie, si evoca un po' lo spirito militaresco di tutti gli ascoltatori. Ed eccolo qua. 15 anni fa vennero a fare un corso di sopravvivenza e combattimento in giungla il corpo speciale della marina italiana, i Consubin, in Guyana, alla caserma Regina della Legione Straniera, e furono gli unici a finire il corso durissimo di 3 mesi. I marinai italiani sono gli unici ad essere rispettati dai legionari. Sembra che invece i legionari, gli altri, ma da dove arrivi? Ad essere già legionari, come legionari. Sono dei grandi, della loro gesta sono nati i tanto decantati Navy Seals. E Gerardo, che se non sbaglio è il nostro ascoltatore legionario. Ma Gerardo, ce l'hai mandata una storia o no? Se l'hai già fatta, ti chiedo scusa, la leggeremo. Se non l'hai ancora fatto, mandacela. E poi ancora, nella mia vita nell'esercito, appunto, ogni incarico è stata una nave scuola. E ultimo, la mia nave scuola sono stati i villaggi turistici. Ci ho fatto diverse stagioni, ho conosciuto le donne che a quell'età, 20 anni, era solo l'unica cosa che cercavo. Io vi ricordo che se avete voglia di vedere la foto e di trovare la mappa e di trovare l'ebook da scaricare, c'è un luogo che è il sito di Radio 24 alla pagina di Voi Siete Qui. Da lì potete scaricare anche il podcast, nella sezione podcast. Se invece siete un po' più pigri come me, Tiziano Bonini, andate su iTunes, vi abbonate gratuitamente e vi scarica le ultime 5 puntate che sono state messe in onda. Questo per quanto riguarda il podcast. Per quanto riguarda i ringraziamenti, invece, grazie a Tiziano Bonini, a Pietro Lacorte, Alessandra De Luca, che è dall'altra parte del vetro, è stata con noi oggi, e a Margherita Ina. Grazie anche a Guido. La storia di oggi era la sua, e anche lui è un punto rosso su una mappa. Io sono Giulio, sono di Modena, la storia di domani è la mia e parla del suono del terremoto. Questa è la mia storia e io sono qui.